Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Chi è? Parola d'ordine. Imbecilli. Apri, è uno che conosco io. Some kind of nature, some kind of soul, some kind of mixture, some kind of gold, some kind of majesty, some chemical load. Noi, presidente, come va? Tutto bene? Tutto bene, di salute, diciamo. Kind of plastic I could wrap around you. Quella diciamo intercettazione pubblicata dal Fatto Quotidiano, e lei ha chiamato la congiura del totano arrostito. Ah beh, questa è bellissima, questa è bellissima. Lei sa che adesso hanno messo in piedi una grande crociata moralizzatrice contro il voto di scambio. E alla fine ho detto, bah, per convincere chi non vuole votare vuol dire che gli offrirai una frittura di pesce, diciamo, nel porto di Agropoli. Diciamo che la voleva anche valorizzare delle eccellenze culinarie della nostra regione. Questo è diventato l'oggetto del voto di scambio. E dunque è partita una crociata moralizzatrice che io ho definito la crociata delle alici fritte, diciamo. Ecco, questo è il voto di scambio. Possiamo aggiungere che ci sarà un altro voto di scambio a Pomigliano, perché il sindaco si è impegnato a pagare un giro di pizza margherita a quelli che vanno a votare. Va bene, ok, con De Luca basta, non se ne può più, dice un ascoltatore. Ma dai, ma insomma, non vi mette di buon umore. Tra l'altro, la domanda alle 6:32 minuti del mattino: ma non vi sentite felici? Felici, spensierati? O lo dice l'Istat, non è che lo dico io. Gli italiani si sentono felici. Hanno cominciato a risentirsi un po' più felici. Ho massimo rispetto l'Istat, le statistiche. È chiaro che non è che si può intercettare il volere di ognuno. Io personalmente, Alessandro Milan, io ieri ho spaccato una tastiera del computer appena ho visto questa notizia. Ah, così. È un anno un po' così, è un anno bisesto. Però cosa c'entra la statistica, le leggi della statistica scientifiche, le medie, insomma, ci sarà quello felice e ci sarà quello infelice. Mediamente gli italiani si sentono un po' più felici. Certo, c'è un po' di smog, c'è un po' di traffico, c'è un po' di percezione di criminalità, però... Oh, vedi qua, Alino, ciao, io sono felice se guido i miei pullman per Firenze. Buon lavoro, Danila. Ma grande, Danila. Allora, gente felice, eccoci qua alle 6:34 minuti. Per esempio, una che è sempre felice, sempre felice. Ci piace per questo, la nostra rossa preferita, la nostra Paola Saluzzi. Che meraviglia, che presentazione splendida. Buongiorno, eh? Alino, buongiorno. Mi dispiace pensare che tu abbia rotto però la tastiera di un computer. Sì, però... Ma perché? Ma così. Ma poverina, ma cosa ti aveva fatto? Ma povera tastierina, ma effettivamente così. Però la scena, quando succedono queste cose, falle filmare. Sì. Così poi l'ira funesta del nostro Alino la vediamo anche, esatto. Lei la tastiera, buongiorno, era meno felice. Lei, la tastiera. Buongiorno, ma basta con questa ira funesta, avanti. Esatto. Non dico che si debba essere felici, e quando ti dicono bisogna essere felici, aiuto. No, quello no. Se però qualcuno si sente un po' più felice, accogliamola, così, insomma, questa cosa, no? Evviva, evviva, evviva Paola Saluzzi, evviva la nostra Caterina! Che qui vicino a me, eccolo, è meraviglioso. Ecco che con la nuova stagione inizia a casa di Paola. Di Paola, ecco. Lì con Caterina, la macchina del caffè rumorosa, ci siamo tutti. La quale Caterina sta facendo delle fusa. A proposito, tu avevi detto che Caterina fosse imbalsamata? Eh sì, non è che è imbalsamata. Ah, gli hai registrato anche le fusa? Sì, no, non è vero. Meno male che è stata la mitica Giulia Crivelli che sì, mi ha aiutato. Mitica sì, Giulia Crivelli sì, che mi ha sostenuto e aiutato via Twitter. Bene, bene, molto bene, molto bene. Allora, ci ho detto, cara Paola, indovina un po' cosa sta succedendo in questo momento. No! È questa la cosa, cioè pare che sia tornato ma non risponde. Una delle classiche situazioni in cui non risponde. Tra l'altro, Penguin Man. No, sai, no, ecco, no. Sai dove è andato? Tra l'altro, in Antartide. Dove? Il nostro Luca Dini, il direttore di Vanity Fair, è andato in Antartide. E quindi io, guarda, settimana scorsa ho avuto ospite De Luca. E ti giuro, me l'ero tenuta così, adesso lo accolgo come De Luca ha definito Beppe Grillo. Pinguino. Sarebbe stato, cioè, ce l'ho in canna da 10 giorni, caro Luca Dini, pinguino, e non risponde. Ma porca miseria, è terribile questa. Però dobbiamo controllarlo un po' di più questo ragazzo, no, perché un giorno ci scappa a Cuba, un giorno ci scappa al circolo polare aria, in Antartide, insomma, voglio dire, ci facciano notizie, no? Antartide non è il circolo polare artico, ovviamente. No, vabbè, sì, va bene, però... va bene, fra i pinguini scopriremo, lo pinguino, scopriremo solo così, vivendo. Pinguino, così, pinguino, tu te l'eri preparata. Me l'ero preparata così. Era pronta da una settimana. Me l'ero preparata. Però, cara Paola Saluzzi, tu ti sei svegliata allegra come sempre, ti sei svegliata felice? Sì. Ebbene sì. Allora carica. Io apro il Parlamento, apro il Parlamento e ti faccio cambiare, ragazzi, subito di umore. Ti voglio subito far cambiare d'umore. Allora, signori, vi voglio presentare Salvatore Romeo, che è il capogruppo della Lega in Regione Lombardia. Sai che cosa ha combinato, cara Paola? Che cosa ha combinato? Allora, si discuteva, di non saperlo, si discuteva la Regione Lombardia di una legge per la parità di genere, per le donne, le uguali opportunità. Adesso non so di preciso la legge, non so di preciso, ma il signor Salvatore Romeo se n'è uscito con questa frase. In molti casi gli uomini dicono sì a, chiaramente agli straordinari, le donne no, perché a mio giudizio in molti casi le donne sono loro che decidono e scelgono di stare vicino ai figli. E stare a casa, e stare a casa. E l'ha detto anche in consiglio regionale. Le donne preferiscono non fare gli straordinari per tirare su i figli a casa. Questo è il motivo per cui guadagnano meno, cara Paola, meno. Allora, e forse è anche giusto secondo Romeo, non lo so, questo non lo so se l'ha detto. Andiamo con ordine. Immaginiamo che le donne non vogliano fare gli straordinari perché vogliono stare a casa. Sì. Beh, intanto già di per sé è uno straordinario complimento, perché crescere i figli, e ti parla una che non ne ha, è il lavoro straordinario più importante del mondo, perché il giorno che le donne smetteranno avremo l'androide, giusto, cui ieri vedevamo presentazione in prima pagina di Repubblica, avremo gli androidi in giro, non avremo più i bambini, avremo gli androidi. E questo è uno. Due, probabilmente bisognerebbe dare un premio in denaro alle donne che fanno gli straordinari a casa. Io sono figlia di una casalinga. Oh, pagare le casalinghe. Anche mia mamma ha fatto tutta la vita a casalinga. O meglio, lavorava prima di sposarsi e poi ha smesso di lavorare per crescere mia sorella e me, per mandare avanti la nostra casa, per fare tutto quello che le vedo fare. E per me la mia mamma ovviamente è il mio eroe, ma la mia mamma non ha mai guadagnato. E questo l'ho sempre trovato, ben prima che ci fossero tempi di discussione sulla materia, per capirci quando avevo 8 anni, sempre molto ingiusto. No, quindi no, ma gli straordinari di questo signore che dice le donne non li prendono perché stanno a casa, bene, Ma qui si è aperto il dibattito, cara Paola, perché c'è chi anche nello stesso partito, la leghista Daniela Martinazzoli, insomma si sono divisi tra uomini e donne, ha detto tirare su figli non è come allevare capretti. Non ho capito perché questa storia dei capretti. Vabbè, l'ha detto perché aveva in mente Heidi e quindi c'è stato un momento della montagna. Ma ha ragione. E adesso c'è tutto il dibattito, però anche di chi dice ma cosa ha detto di così grave, di così male, di così brutto. Non è stato detto una cosa, non è stata detta una bestemmia. Cioè, le donne preferiscono rimanere nel momento in cui hanno terminato il lavoro, tornano a casa per crescere i figli. Questa non è una cosa, un'affermazione orribile, ok? È un'affermazione, virgolette, anche giusta, solo che non va letta come lo vedi, voi non fate gli straordinari, quindi guadagnate di meno. Fateci guadagnare tanto quanto, perché noi vi cresciamo i figli e i figli sono il presente e il futuro. Sono d'accordo con te, però Salvatore Romeo si è guadagnato, insomma, questo. Vabbè, si è guadagnato un po' di attacchi, gli tireranno dei mandarini perché è periodo e quindi quando saranno seduti in consiglio gli arriverà un mandarino sul nocchino. Dietro, poi si gira esatto. Le donne che anche, girano, anche nel suo partito ero ad allevare figli, scusa, ero qui, sono passata di qui dalla esatto. Allora, cara Paola, anche perché per il resto che dobbiamo dire di questa campagna elettorale, io non ne posso più, è scrofa, è serial killer, è assassini, è disgraziati, accozzaglia, farabutti, tutte le campagne elettorali sono così, tutte così, alla fine gli ultimi 15 giorni. Ma pensa, Alessandro, quando è stato detto, no, non ci viene da chiamarti Alessandro, tu sei Alino, Alino Milan. Pensa, caro Alino, che è stato più volte detto che la campagna elettorale fra Trump e Hillary Clinton si fosse europeizzata. Si chiama americanizzati, e invece loro si erano europeizzati, insulti. Insulto fino all'ultimo momento e così sarà. Anche dopo, guarda, tu hai detto la frase giusta, anche dopo c'è questa storia del ricorso, ecco, io ce la par condicio, cara Paola, quindi quando tu dirai no io dirò sì e fai tu il contrario, mi raccomando. Però, io non capisco quando il presidente del comitato del no sì. No, dovevi dire il presidente del comitato e rimane il presidente del comitato del no, il costituzionalista Pace, fa un'intervista al Fatto Quotidiano e annuncia: faremo i ricorsi se il voto all'estero sarà in qualche modo decisivo. Questo perché? Senti un po', perché il voto è libero, segreto, eccetera, mentre votare per corrispondenza viola la segretezza del voto. Ma signori, ma ci sono milioni di americani che da anni votano per corrispondenza. Che facciamo? Destituiamo Trump perché milioni di voti li avrà presi per corrispondenza? No, perché l'hanno votato milioni di americani. Ma ho capito. Con voto palese o meno, non lo so. Ma cosa vuol dire che il voto per corrispondenza di principio viola la segretezza? Perché dice che ci sono pressioni familiare, vota così, vota cosà. Ma questo anche se uno va al seggio elettorale, no? Sì. Ci sarà la nonna che ti dirà vota così, ci sarà il cugino che ti dirà vota cosà. Alino, tu invitalo e fatti spiegare tutto. Lo invito, poi violo la par condicio, dopo devo chiamare uno del sì. Guarda che è una roba da perderci la testa questa. Lo so. Certo, questa però del voto, della polemica sul voto inviato, spedito col francobollo, è sicuramente un tema su cui vigilare, giustamente, ma voglio dire, lo si faccia bene, correttamente. Si possono fare le cose bene, correttamente? Se no rinunciamo a tutto. Chiunque voti, se in questo momento la stessa persona, ed è un costituzionalista, quindi voglio dire, chapeau, che propone e che porta avanti questo suo dubbio, se fosse lui a votare da Buenos Aires o da New York o da Adelaide, voterebbe col suo voto, no? Ma infatti, poi ci sono anche corso solenne, no? Ci sono delle situazioni, ci sono delle situazioni davvero, davvero strane. L'ultima, Berlusconi, ma Berlusconi ce l'abbiamo. Guardo Lorenzo Nespoli in redazione. Berlusconi su Mediaset, no, non c'è. Berlusconi, cioè, ci sono cose un pochino bizzarre. Berlusconi è andato da Porta a Porta da Vespa a dire che Mediaset vota sì, nel senso, perché Confalonieri vota sì allora, presidente? Perché hanno paura delle ritorsioni del governo. Cioè, è straordinario questa cosa. Berlusconi ha detto che Renzi, Berlusconi, ripeto, ha detto che Renzi ha un conflitto di interessi. Cioè, l'ha detto Silvio Berlusconi, ma non è magnifico, cara Paola Saluzzi, tutto questo? È magnifico, per me è magnifico. E magnifico. Ti aggiungo, oggi è solo il 23 novembre. Esatto, è tutto magnifico. Nel senso che dobbiamo considerare questo, che dal 23 novembre al 4 dicembre... Ne sentiremo. Per esempio, senti il di solito moderato Giuliano Cazzola, ex parlamentare, ex sindacalista. Sentilo qua, Giuliano Cazzola. Cazzola, lei vota come Credo che con Beppe Grillo bisogna prendere le armi in qualche modo. Anzi, guardi, io mi auguro che ci siano i carabinieri che facciano un colpo di stato il giorno in cui vincerà la Cazzola, no. Cazzola, anche Mirta Merlino, Cazzola, su, Mirta, poi, che diamine, vabbè. Allora, cara Paola, bisognerebbe poi fare una raccolta di tutte queste tutte dichiarazioni che hanno per ognuno hanno un loro perché. Ecco, poi quando diventa un insulto, lì non ci reggiamo. Va bene. Allora facciamo così. Diventa più complesso, diventa più complicato. Certo, secondo te, Lucadini, il pinguino. Ha votato tra i pinguini? Forse sì, ha votato così, ha non votato lo so. Tra i pinguini e ha spedito la sua busta. Io indagherei. Intanto facciamo così, andiamo al traffico. Poi, cara traffico Paola. Traffico sì o traffico no? Traffico sì e no. Così la par condicio. il traffico c'è? Sì, no. Ma vabbè, dai, andiamo al traffico. Milan, o traffico. What cosa tentacolare. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta Milan vota sì, Milan vota no. Ma chi se ne frega? Io giuro che veramente quando sento parlare la gente come De Luca mi viene una voglia di Stalin, mi viene. Anche al giro in gondoletta mi tocca pagare con le tasse. A sto punto imparo a noare e voglio vedere se mi tasse anche sta roba qua. Ciao Milan! A chi vota sì? Cosa? Io regalo una motocicletta. Una motocicletta? A chi vota sì? 10 HP. Cosa? Tutta cromata. No, ma cosa dici? E tu se voti sì. Ma ho personalizzato. Quindi? E ora son cacci miei. No. Non votar no. Non votar no. Motocicletta. Vabbè, questa è Crozza ieri. Allora, cara Paola Saluzzi, tu tra l'altro alle 10 di che parlerai? Sempre di referendum. Hai sentito l'uomo che diceva meglio Stalin a questo punto? Sì, cioè, sì. Stiamo anche tirando fuori baffone. E anche no, quello, anche quello che ci tassano la gondoletta. Sì, la gondoletta quella era meravigliosa. Sì. No, Alessandro, allora il fatto è che dentro i fatti che va in onda tutti i giorni, 10, mezzogiorno, ti ringrazio del fatto di poterne parlare. Sicuramente si occupa anche di politica, sentendo sì, il punto politico. Ma giustamente. Raccontato. Ma noi siamo soprattutto su cronaca e storie. Che bello. Diciamo che lo spostamento della fascia oraria per me è significato questo, cioè ritornare più sulla cronaca, sui fatti di cronaca e sulle storie, passando per tutte le notizie, chiaramente. Quindi avremo ancora tanta America, perché devo dire che l'elezione di Trump, e ti parla una che non è stata mai esattamente, non è sua tifosa, sì, sta regalando, è chiaro, ogni giorno una scoperta in più, perché si capisce che cosa questo presidente deciderà di fare. Quindi ieri già l'incontro con il New York Times è stato per esempio ha detto non chiederò a Hillary, esatto, per Hillary il carcere, esatto, ha già sofferto troppo. Esatto. Sul clima forse farò un passo indietro, vedete che poi... No? Alino, sai che cosa? cosa speriamo tutti, tutti noi o chi è stato, sì, diciamo così, fieramente anti-Trump, tra 4 anni di dovergli anche chiedere scusa. Guarda, vediamo. Questo già sarebbe un miracolo. Guarda, per no? Briatore è già tutto chiaro. Senti qui Flavio Briatore che dice di Trump. Donald sarà uno dei presidenti migliori che l'America abbia mai avuto, perché Donald, lui lo sa. Cioè, quando tu negozi con Putin, preferisci mandare uno come Trump o una come la Clinton? Io mando Trump 1000 volte, adesso ci va lui. Briatore, io mando Trump alla Clinton, sei fuori? No, l'unica cosa è che non deve portare, quando ha detto Farage, ambasciatore britannico, vabbè, alla regina Elisabetta è caduta la diciamo che gli ambasciatori britannici li scelgono ancora in Gran Bretagna. Ecco. Però, invece cara, volevo dirti questo, dimmi. Oggi ho Melania Mazzucco. Che racconta nel suo ultimo libro una storia vera di una donna arrivata dall'Africa nella maniera più difficile nel nostro paese. C'è stato un incontro al centro Stalli, sì, tra lei e questa donna. È un libro straordinario per capire di più su chi scappa da guerre, fame, mondo capovolto. Bene, allora, detto. Paola, no, ci ho detto, io ti devo presentare una nostra ascoltatrice dall'estero, perché noi sai come ogni tanto li andiamo a scovare. Grazie, per la... Vietnam, ma anche perché oggi andiamo proprio nell'America. Per la verità l'abbiamo chiamata anche il giorno delle elezioni, la nostra Barbara che ci segue da Seattle, stato di Washington, giusto? Sì, sì, buongiorno Lino, buongiorno Paola. Come va Barbara? Che ore sono intanto lì? Siete 9 ore indietro? Sì, adesso sono esattamente le 21:52. Ma è fantastico. Quindi siamo ancora a martedì. Siamo ancora a martedì. Ma è bella questa cosa, cioè è il mistero siamo della radio. Ieri. Cioè, siamo ieri. Come va lì ieri? Come va lì ieri? Qui va abbastanza bene, insomma, adesso ci stiamo preparando per il tacchino giovedì. Ah, giusto, il Thanksgiving. Esatto, il Black Friday venerdì, il Cyber Monday lunedì. Sì, e poi è Saturday, che cacchio fate, è Saturday, no, tutto Saturday a posto. No, quello Saturday è Night libero, Fever, esatto, è giusto, Saturday Night Fever e Sunday Bow. Allora, Barbara, attenzione, c'è una dichiarazione da fare, però Barbara potrebbe mandarmi, potresti mandarmi in carcere, Barbara, se tu dici come hai votato in Italia, mi mandano diritto. Non lo dirò neanche sotto tortura. Però so che hai votato, cioè hai già votato, sì, al referendum? Ah sì, e come? Ho già votato, mi è arrivato il malloppo, ieri, sì, ieri il malloppo, la scheda. Potevi fuggire, col malloppo, vabbè. Esatto, e poi ho votato oggi perché c'era anche una avvertenza di votare il più presto possibile, sì, perché tutte le schede devono arrivare entro ma come arrivano per posta? Arrivano per posta, sì, c'è la scheda, una busta, la fotocopia del passaporto, sì, e via. No, basta la scheda. No, non volevo metterti in ansia che magari ti sei dimenticata la cosa fatta. Avrei fatto benissimo. Quindi tutto a posto, sei serena, arriverà, i piccioni viaggiatori sono già in viaggio. E invece Trump come ti pare? Trump oggi si parla dell'intervista che ha rilasciato il New York Times, oggi, quindi martedì. Che sarà pubblicata sul sito domani, cioè oggi per Caterina voi pomeriggio. Ha sentito Trump. Caterina Falefusa ha sentito Trump. No, giuro. Mi sta attaccata. E ti piace Trump? Questo lo puoi dire? No. Io ho votato Hillary, non con grande entusiasmo, Ce l'avevi già detto, Barbara. Io però qui vi devo fermare, vi devo salutare. Grazie Barbara perché non mi ha mandato in casa dicendo come ha votato. Grazie davvero, sono ancora salvo, sono riuscito a sopravvivere alla diretta, insomma. Ringrazio Paola Saluzzi, alle 10 salutiamo il pinguino Luca Dini che chissà quando si sarà svegliato, si sveglierà. Intanto un abbraccio a tutti. Pinguino. Il segnale orario vi è offerto da Axerta, indaga, documenta, accerta, www.axerta.it. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo.